Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Oggi parliamo di voce, intanto buongiorno da Nicoletta. A volte ne vorremmo una diversa, ci piacerebbe più bassa, più calda, più giovane, con maggiore verve. Una voce insomma che ci assomigli di più, una voce giusta per noi, capace anche di essere all'altezza delle diverse situazioni e capace di rappresentarci in modo adeguato. Cari amici, si può avere... Tutto si può fare, basta lavorarci un po' ed è quello che faremo oggi insieme. Sul nostro profilo Facebook vi abbiamo messo a disposizione un breve testo, una favola di Fedro. Voi potete chiamarci e leggerlo in diretta o, se preferite, raccontateci una breve storia con le vostre parole. Insomma, quello che vi invito a fare oggi è un provino in diretta. 800 24 00 24. Abbiamo Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione, ma soprattutto qui in studio con me ho la persona giusta che ci aiuterà a lavorare sulla nostra voce. È attrice, doppiatrice, tiene i corsi sulla comunicazione e sul potere della voce. Patrizia Mottola. Ciao Patrizia. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Patrizia, non conta solo quello che diciamo, ma come lo diciamo. Verissimo Nicoletta, non solo, ma pensa che ci sono stati fatti degli studi e noi ci preoccupiamo tanto a cosa devo dire, ho una presentazione, pensiamo molto al cosa dire, vero? Certo. In realtà hanno fatto degli studi e quello che diciamo, il cosa, cattura la nostra attenzione, la nostra mente solo per un 7%, mentre il tono della voce, il colore della voce, il ritmo, il volume, il 38% pensa. E la gestualità, la postura, la mimica, l'espressività, il 55%. Per cui quello che diciamo è davvero cattura pochissimo, solo 7%. Allora, dato che noi vogliamo che i nostri ascoltatori ci chiamino per avere una sorta di analisi della loro voce, anche dei consigli, anche dei consigli pratici, personalizzati, tu qua sei a nostra disposizione. Io vorrei che tu ci leggessi la breve storia che abbiamo messo sul nostro profilo Facebook della volpe, in modo che potessi farci sentire, sì. Non possiamo toccare con mano, ma sentire la differenza che possiamo dare ad un testo leggendolo in modo diverso. Sì, l'idea è quella di far vivere le parole, giocare con le parole e variarle. Quindi sentite questa storia di Fedro. Una volpe affamata vide dei grappoli d'uva che pendevano da un pergolato e tentò di afferrarli. Ah, ma non ci riuscì. «Rabaccia acerba», disse allora fra sé e sé. E se ne andò. Così, anche fra gli uomini, c'è chi, non riuscendo per incapacità a raggiungere il suo intento, ne dà la colpa alle circostanze. Allora, volete provare anche voi, certo, un po' l'emozione di leggere un testo, vero, di parlare alla radio, giocherà, blocca, respira, però noi vi insegneremo a sciogliere questa tensione. Se non volete leggere perché non avete il testo sotto mano e volete raccontarci una brevissima storia, come ad esempio avete iniziato oggi la giornata, Patrizia vi aiuterà a capire se la vostra voce è abbastanza vivace, se è monotona, se pronunciate bene le parole. Quali sono i difetti che rendono moscia un po' la nostra comunicazione? In genere, dopo anni e anni di insegnamento e di contatto con il pubblico, le cose più comuni che sento nelle persone sono il fatto che tendono ad avere sempre lo stesso tono. O può essere sempre alto oppure sempre basso, mogio mogio, privi di variazioni. Se pensiamo alla musica classica, per esempio, hai presente come sono gli spartiti? C'è scritto lento, allegro, veloce, andante con moto. C'è movimento e in effetti le voci dei grandi comunicatori, pensiamo a Kennedy, pensiamo anche ai nostri politici, le voci che ci catturano di più sono quelle che hanno movimento, partono lente, poi alzano i volumi, poi hanno delle variazioni di velocità. Prendiamo ad esempio un buon esempio di comunicazione è Obama. Se lo ascoltiamo ha delle bellissime variazioni e ha un ottimo uso delle pause. Quindi una cosa che tipica è il fatto che le persone tendono ad essere monocorde, usano pochissimo le pause che sono fondamentali per farsi capire, per variare, per respirare. e poi tendono a masticare poco le parole. Per cui spesso, non so se ti è capitato di chiedere scusa, puoi ripetere che non ho capito? Mi puoi ripetere quello che hai detto? Allora, potremmo lavorare su questo, Patrizia. Dimmi. Pensiamo all'effetto che la nostra voce produce sugli altri. A casa, al lavoro, in famiglia. Siamo convincenti? Riusciamo a mantenere l'attenzione? O spesso ci chiedono, come dicevi tu, scusa, puoi ripetere? E soprattutto, riusciamo a trasmettere con efficacia quello che vogliamo dire? Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrei scriverti ti amo con un milione di O e verrebbe presto a poco così. Ti amo. E senti, adesso non posso parlare. Ti chiamo io stasera, eh? Ciao. Allora, non ti preoccupare. Ottimismo, Silvia, ottimismo. Che schifo. Porca trota. Vi abbiamo fatto ascoltare quattro magnifiche voci. Vero, ecco, vero, io spero che voi diverse le abbiate ascoltate con attenzione, perché vorrei che voi ci chiamaste per dare un nome a queste voci. Le abbiamo scelte abbastanza riconoscibili e uno di voi potrà ricevere a casa, in collaborazione con libreriarizzoli.it, un libro molto interessante, Voci smarrite, e in linea con noi abbiamo l'autrice Laura Pigozzi, che è tornata a trovarci. Ciao Laura! Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai tuoi ascoltatori. Buongiorno. Docente di canto e di psicanalisi della voce. Laura, la voce partecipa della psiche e del corpo. Basta uno scarto vocale, un inceppamento, un cambio di tono e spesso, no, dà un quadro molto più chiaro di tante parole. Quante informazioni dà la voce ad una addetta ai lavori come te, ad una psicanalista della voce? Ma guarda, ti rispondo con una frase di Philippe Soller che diceva: è il corpo che esce dalla voce e non il contrario. E per un analista il corpo è una carta geografica, una carta su cui l'inconscio disegna una storia, come sul timbro della voce. E in effetti chi entra in analisi è invitato a dire tutto quello che gli viene in mente, sospendendo la normale logica della narrazione e procedendo invece più liberamente. Allora alla voce succede qualcosa, cioè incorre in una serie di piccoli e importanti incidenti che sono rivelatori, perché la voce non mente, al contrario delle parole. Quindi la voce trasporta le parole, ma non è un mezzo neutro, è un mezzo che la tradisce, le tradisce in un certo senso. Però queste increspature della voce sono veramente delle cose preziose per l'ascolto analitico. E in effetti quello che ho imparato da un lavoro, cioè come insegnante di canto, mi ha aiutato nell'altro come analista e viceversa. E diciamo che uno dei momenti più intensi in un transfer analitico si produce proprio quando un paziente in seduta scopre qualcosa di vero che lo riguarda, e lì siamo sicuri che la voce cambia. La voce cambia un attimo prima, come se la voce fosse proprio la rivelazione di questa verità. E se vogliamo usare una metafora musicale per l'analisi, possiamo dire che l'analisi è proprio questo: il passaggio da un accordo stonato ad un altro un po' meno cacofonico, non perfetto, perché la perfezione è una brutta bestia, ma diciamo da una partitura un po' sgangherata che ferisce le orecchie a un'altra magari un po' più musicale, e che tolleri delle inevitabili cadute tonali anche nella nuova voce che si è, come dire, conquistata. Perché le cadute tonali sono, come dire, delle cose preziose, perché aprono a una nuova scala musicale, a una nuova modulazione, a una invenzione melodica. Quindi Laura, possiamo dire quindi ai nostri ascoltatori e rassicurarci, pensando che l'imperfezione della voce è in fondo una risorsa. L'imperfezione è una risorsa, infatti io sono per un'estetica dell'imperfezione, perché la malia di una voce sta proprio nella sua imperfezione, nella sua vulnerabilità, nella nota non perfettamente centrata che apre uno scenario nuovo, che racconta qualcosa di più. Pensa che persino a Miles Davis è toccato di sentirsi dire che il suo suono era calante, o anche addirittura alla nostra grande Mina. Quindi l'imperfezione è una risorsa, perché se la voce è il nostro umano messo a nudo, purtroppo oggi invece siamo immersi nel discorso disumano dell'efficienza, della fretta e della performance. E voglio dire una cosa che secondo me è veramente importantissima: non performizziamo troppo la voce, perché questo è un iperadattarla, un normalizzarla, è una ipernormalità che è un po' simile a quella dei bambini, sai, quelli che a scuola sono troppo adattati, quelli proprio bravi, bravi, bravi, che fanno la felicità delle mamme e delle nonne. Ecco, quando un bambino è troppo bravo a scuola c'è qualcosa che non va, così quando una voce è troppo perfetta è anche un po' morta, perché la perfezione è proprio un po' parente stretta della paralisi, della freddezza, dell'impassibilità. Insomma, c'è qualcosa che è congelato. Invece ci si deve sporcare le mani nell'inconscio, nella pulsione. La voce deve portare fuori di noi il nostro corpo proprio, è il corpo che entra nella voce. E quindi la voce, come dire, ha una sua forza, ha un incantamento, ma questa forza e questo incantamento, ricordiamoci, non dobbiamo essere onnipotenti, perché è indipendente dalla nostra volontà. E quindi, come dire, non si può raggiungere uno scopo con la voce, perché la voce è attraversata dall'inconscio e sull'inconscio non si ha padronanza. Io ringrazio Laura Pigozzi che ci ha aperto, no, questo spunto di riflessione. Ci ha tolto molte persone. Un'ascoltatrice mi sta scrivendo: mi piacerebbe intervenire, ma io mi vergogno della mia voce. Come l'inconscio ci blocca. Come l'inconscio ci dialogo blocca. Interno. Intanto ricordo il titolo del libro di Laura Pigozzi: Voci smarrite, godimento femminile e sublimazione, in collaborazione con la libreria Rizzoli.it. Lo faremo ricevere a casa del primo ascoltatore che, chiamandolo 800 24 00 24, darà un nome, un volto alle voci che abbiamo appena ascoltato. Intanto Laura, io ti saluto e noi andiamo a riascoltare le voci. Grazie a Laura Pigozzi. Grazie a te, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori. Buona giornata. Buon lavoro. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrei scriverti ti amo con un milione di O e verrebbe presto a poco così. Ti amo. E senti, adesso non posso parlare, ti chiamo io stasera, Ciao. Allora, non ti preoccupare. Ottimismo, Silvia, ottimismo. Che schifo. Porca trota. E io vado a prendere Giovanna che ci chiama da Torino all'800 24 00 24. Giovanna, buongiorno. Buongiorno Giovanna. Buongiorno, buon lavoro, la sento spesso perché essendo un anestesista lavoro spesso di notte, quindi ho il piacere di poterla ascoltare di giorno. Grazie, mi fa piacere. Giovanna. Ero qua per il test. Fantastico, lei ha un vuole raccontarci qualcosa, utilizza la favola che abbiamo messo no, a disposizione? Sì. Anche perché insegnando all'università volevo vedere se non avevo troppo Mirignao, essendo cresciuta in parte a Roma e poi arrivata a Torino. Vada. Ho un testo preso da un libro che parla proprio di cardiochirurgia dove lavoro e voi mi fermate quando ho letto quel che vi basta. Brava, allora Giovanna andiamo, diamo il voto noi ad una prof, che godimento. L'unica cosa, vabbè, dovrò riaccendere la radio e mettermi in linea perché è una radio che prende la linea un po' all'antiquata. Va bene, allora parto? Parta. Parto. Carlo, seduto alla sua scrivania nella stanza che divideva con gli altri due aiuti, stava discutendo il caso con un volenteroso studente in medicina che da tempo frequentava la cardiochirurgia. Il donatore, anzi la donatrice, aveva 29 anni ed era caduta in casa fratturandosi la base del collo. Poveretta anche lei, si disse Carlo. E poi si mise a leggere i dati raccolti per telefono. Peso 63 kg, gruppo 0. Sassi pesava 67 kg ed era anche lui del gruppo 0. Quasi perfetto, questa è la volta buona. Anche il sangue non sarà un problema, riflette Carlo, visto che l'altro giorno per quel falso allarme il sangue lo avevano trovato. Ok. Per quanto riguarda gli esami del donatore e il suo stato clinico, dobbiamo fidarci dei medici di lì, disse Carlo ad alta voce e, cercando un foglio bianco fra le pile di libri e giornali che ingombravano la sua disordinatissima scrivania, aggiunse: adesso organizziamo il viaggio. Perfetto, Giovanna, io vedo che Patrizia si è già puntata delle note. Beh, che dire, Giovanna, intanto sei bravissima. Hai articolato perfettamente le parole, erano chiare, ascoltavo il tuo racconto e lo visualizzavo. Mentre lo descrivevi, io mi immaginavo la scena. Belli cambi, c'era un buon volume, quindi devo dire, veramente brava. Che ne pensi, Nicoletta? A me è piaciuta molto, soprattutto perché fa le pause, è chiara e cambia anche il tono della voce, che penso sia importante. Importante per mantenere vivo l'interesse del... Giovanna era preoccupata di avere il berignao, ha detto. Quella cantilena che io per prima cerco di limitare, ma viene. Ecco. Viene. Si può fare qualcosa? Come diceva la dottoressa Pigozzi, l'imperfezione è anche bella. Per cui tendenzialmente, ecco, Giovanna, e per tutti coloro che vogliono lavorare su la cantilena, questo birignao. Abbiamo sentito il primo esempio, svelo chi è, credo che tutti lo conoscano, non si può. Non si può. Nel primo esempio, comunque, questa eccellente voce che avete sentita, la voce era dritta e andava verso il basso. Scendeva nella parte terminale un po' verso il basso. Giovanna, per farti un esempio, è un po' come se tu ti presentassi e dicessi: buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanna, vengo da Torino. Senti come la voce un po' va verso l'alto e un po' cantilenante, e il fatto di prolungare molto le vocali, questo dà un po' il birignao, questo cantilenare, questo prolungare le vocali. Mentre per avere un tono bello, convincente, assertivo, l'idea è di portare la frase, la parte terminale, verso il basso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Patrizia Mottola. E se riascoltassimo un attimino il primo esempio, la voce doppiata, il film che avete ascoltato, sentite che la voce è dritta e va verso il basso. Quindi tiriamola un verso po' giù. Intanto, esatto, Giovanna, tiriamola un po' giù. Brava. Giovanna, si tiri su perché è stata promossa. Bravissima, Giovanna. Ma noi oggi vogliamo occuparci anche della salute della nostra voce. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Giulia Bertino, che è otorinolaringoiatra presso la clinica del Policlinico San Matteo di Pavia. Buongiorno dottoressa Bertino. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. A lei affideremo la nostra voce, che tante volte ci fa dei piccoli salti, ma abbiamo bisogno di schiarirla, diventa più sottile, non è magari solamente un problema di impostazione della voce, ma c'è qualcosa in quel magnifico lavoro di équipe che permette alla voce di uscire dal nostro corpo, che va controllato. Esatto. Vero? Esatto. Allora, dottoressa Bertino, Patrizia ha a disposizione le voci dei nostri ascoltatori, che si metteranno così in gioco e leggeranno dei testi o racconteranno delle piccole storie per capire se la loro voce ha corpo, calore, tono, ritmo. Dai nostri ascoltatori, lei che cosa vuole sapere per fare una analisi della voce? Dagli ascoltatori, innanzitutto quello che è importante sapere è qualcosa sulle abitudini di vita, sull'attività professionale, perché ovviamente sono i primi fattori che possono interferire con la produzione vocale e quindi possono creare problemi. Mi riferisco ovviamente al fatto se la persona è una persona che fa uso della propria voce per motivi professionali, quindi un insegnante, un centralinista o qualsiasi impiegato che lavori allo sportello a contatto, certo, con il pubblico. Poi altra cosa importante, come dicevo, le abitudini voluttuari, quindi se una persona è fumatrice o non è fumatrice, se consuma alcolici, sono ovviamente fattori che possono intervenire sulla salute generale e in particolare su quello che è l'organo vocale. Poi se ci sono dei segnali di affaticamento, persone che dicono ho parlato tutto il giorno, mi sento che la voce tira, oppure voci che la raucedine, voci che si abbassano, 800 24 0024, la dottoressa Bertino rimane con noi, Patrizia Mottola è qui con me in studio, voi ci state ascoltando, chiamateci, andiamo a sentire i mercati, poi il meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Parlatemi, fatemi sentire la vostra voce, fatela sentire soprattutto all'ospite di oggi, Patrizia Mottola, che ve la metterà un po' a posto. Darò qualche consiglio. E ci occuperemo della salute della nostra voce con la dottoressa Bertino, che ha una gran bella voce, vero, vero Patrizia? Molto bella, affascinante. Grazie. Intanto abbiamo Mary che ci chiama da Prato all'800 24 0024. Buongiorno, siamo tutte donne oggi. È vero. Buongiorno. Buongiorno, come si sta bene? Molto bene, c'è il sole. Hai visto, è per tutta la settimana tempo buono, ce la godiamo ancora. Allora Mary, siamo qua. Mi dica lei. Io ho chiamato per le voci che dovevamo riconoscere. Sì. Se gliele devo ripetere? Sì, che così se mi dice quelle giuste io le faccio arrivare a casa voci smarrite. Volentieri, volentieri. Secondo me è Luca Ward, Stefano Accorsi, Claudio Bisio e Giorgia. No, ne ha sbagliato uno, non posso aiutare così perché sennò aiuto troppo, c'è una voce sbagliata. Mary, mi dispiace, buona voce, buona giornata. Anche a voi, buongiorno. Buongiorno. Buona giornata Mary, che bella questo accento toscano. Perfetto. Questa dizione bella toscana. Giovanni, dalla provincia di Milano, buongiorno a lei. Buongiorno. Come va? Io sto bene, lei? Bene, bene. Anzi. Bene, con lei aperta. Stiamo bene, ogni tanto stiamo anche bene. Passate da una Giovanna a un Giovanni, da un insegnante a un altro insegnante. Fantastico. Quindi si capisce che i Giovanni sono inclini all'insegnamento. Niente, io telefonavo sostanzialmente per due questioni. Sì. Allora, uno perché ovviamente lo uso come strumento, io poi tengo anche tante conferenze, pertanto... Sì. Ci sono varie situazioni in cui utilizzo la mia voce e poi volevo sapere, avevo una curiosità, volevo sapere se eventualmente intraprendendo una scuola di canto potrebbe essere un eccessivo carico che si può dare alla mia voce o se invece magari imparando ad utilizzarla meglio poteva essere d'aiuto. Ecco, poi certo sono pronto a fare il famoso test per capire... Allora, lei ha Fedro sotto mano? Io non ho nulla sotto mano. Allora, ma intanto macchina, penso che intanto Patrizia ha già sentito come si muove la sua voce. Assolutamente sì. Patrizia. Beh, Giovanni, il consiglio che ti do, se lavori con la voce, canti, quindi sviluppi l'orecchio, che è fondamentale per la vocalità, ti servirà tantissimo. Il segreto per avere una buona voce è migliorare l'ascolto, ascoltarsi, migliorare proprio ascoltare la musica serve tantissimo perché ci dà proprio questo giocare con la voce, cambiare i toni, i ritmi. Quindi la scuola di canto falla tranquillamente, imparerai a respirare correttamente, imparerai a utilizzare in maniera corretta lo strumento voce. E poi che dire, da quello che ho sentito... Come un po' tutti tendiamo a correre, ad andare con un ritmo un po' accelerato, quindi giocare un po' sui ritmi e visto che insegna e ha a che fare con tanti tipi di persone in aula, il consiglio che do a Giovanni ma do un po' tutti è che noi siamo diversi, ogni persona è diversa e ha un modo di apprendere diverso. Nel momento in cui parliamo in pubblico, il consiglio che vi do è iniziare parlando lentamente, in modo da prendere tutte quelle persone che hanno, rispetto all'apprendimento, un ritmo un po' più lento. Definite anche a livello di programmazione neurolinguistica cinestesiche, quindi lente, tranquille. Poi, Giovanni, ti consiglio di alzare il volume dopo che hai iniziato in maniera tranquilla il tuo ingresso la tua presentazione e dopodiché iniziare con un ritmo più sostenuto. Tutto questo intervallato da delle pause, perché se iniziamo a parlare velocemente questo mette un po' agitazione in chi ci ascolta, quindi variare in questo modo. Alla dottoressa Bertino invece vorrei chiedere un consiglio per le persone che come Giovanni usano molto la voce, consigli di manutenzione della voce. Che cosa bisogna fare per mantenerla giovane, fresca? Beh, innanzitutto ci sono delle norme di igiene vocale, diciamo, che dovrebbero essere rispettate il più possibile, quindi cercare di evitare di parlare con un'intensità di voce troppo elevata, di parlare come è stato detto prima, quindi di parlare troppo velocemente, di rispettare i tempi della comunicazione, quindi di non parlarsi addosso, evitare anche di parlare a voce sussurrata o bisbigliata. Contrariamente a quanto si può pensare, la voce sussurrata o bisbigliata risulta molto faticosa per la laringe, quindi non deve essere utilizzato questo tipo di fonazione, ma possono essere importanti anche delle norme alimentari, il che vuol dire evitare di mangiare e effettuare dei pasti troppo abbondanti prima soprattutto di qualsiasi prestazione vocale. Quindi se ci si riferisce ad esempio all'insegnante, quindi alla necessità di effettuare una lezione, prima della lezione bere è meglio non mangiare troppo, perché questo, come potremmo poi ne parlarne dopo, può interferire con il movimento del diaframma e quindi può compromettere, diciamo, la respirazione. E poi soprattutto anche bere molta acqua e, se possibile, sempre a temperatura ambiente, mai troppo caldo o troppo fredda, questo per non creare appunto degli stress alle mucose della gola e per appunto lubrificare le corde vocali. E poi un'altra norma importante per gli insegnanti: cercare sempre di usare degli strumenti vicarianti, il che vuol dire utilizzare il microfono se possibile, soprattutto quando si deve parlare in ambienti troppo grandi o con un'acustica difettosa. Quindi sostanzialmente, diciamo, questo tipo di norme. Antonio ci chiama da Verona. Buongiorno Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Io volevo capire una cosa, chiamo apposta, visto, ne approfitto. Comunque la mia voce è spesso rauca, no? Sì. Vado a giorni, io faccio anche 2 o 3 giorni di fila con la voce rauca, un po' anche adesso. Sì, Se alzo un po' il tono, non è più, ecco, come adesso, cerco di, un po' mi sforza veramente, non è rauca, ecco. Dottoressa Bertino. Non capisco mai sta cosa. Dottoressa Bertino, la voce rauca. È una caratteristica di Antonio da Verona, perché si confronta spesso con questo problema, ma può capitare saltuariamente a ciascuno di noi, anche addirittura rimanere senza voce. Che cosa si deve fare? Allora, la voce rauca può essere appunto un'espressione o di semplice affaticamento della voce, quindi questo può capitare appunto nelle persone che la usano molto, ma può essere anche l'espressione o di una infiammazione temporanea o di una patologia a carico delle corde vocali. Diciamo che in genere c'è una regola aurea da rispettare, che può essere questa, cioè se si ha una voce rauca o comunque un calo di voce che dura per più di 10 giorni dopo un adeguato periodo di riposo dalla fonazione o comunque dopo una terapia medica, è bene sottoporsi a una visita specialistica. Quindi, diciamo, dopo 10 giorni è sempre bene, diciamo, rivolgersi o al proprio curante o comunque a un otorinolaringoiatra per far valutare appunto le strutture, la laringe, la gola e quindi tutto le corde vocali. Esatto. Patrizia, il nostro ascoltatore cercava però di ovviare questo inconveniente e ha cambiato forse respirazione, ecco, perché invece ed è fondamentale. Parliamo della respirazione diaframmatica. Noi solitamente respiriamo con la parte alta. E questo modifica anche il colore, il tono della nostra voce. Bisogna invece parlare con la parte bassa, giù. Per riuscire a dare più volume, per dare più potenza alla nostra voce. Essere e benessere. Pronto ragioniere? No, mi vorrei ritirare. Allora vuole fare la coppa? No, la coppa no. Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Io le ho preparato anche il testo. Vabbè. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il Visconte Cobram? Camuffi la voce però, benissimo, d'accordo. Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier. Che sarei? Sì. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Imbuto. L'orecchia. Asciugamano che copre. Oh, faccio il numero. Nella conca! Svedese! Muovi! Padozzi, è lei? Patrizia, poteva insegnare invece a fare la respirazione diaframmatica, sì, perché la voce cambia molto. Assolutamente, assolutamente. Tendenzialmente, intanto, come dicevi Nicoletta, giustamente tu, si tende a respirare con la parte alta e tendiamo a prendere velocemente l'aria e buttarla velocemente anche fuori, quindi è come respirava, sì, Fantozzi, una respirazione veloce, prendeva fiato velocemente e la buttava fuori velocemente. Il segreto sta nel riempire non tanto la parte alta e alzare le spalle, bensì riempire lo stomaco. E in effetti, se andiamo a mettere le nostre mani sulla gabbia toracica, nella parte bassa abbiamo le costole mobili perché si devono aprire. E in effetti, se noi andiamo a vedere una tavola anatomica, i polmoni potrebbero essere come due palloncini, e i palloncini si gonfiano più nella parte bassa che nella parte alta. Quindi immaginiamo di gonfiare dei palloncini e sentiremo le costole mobili che si allargano sotto le nostre mani. Vero Nicoletta, lo stai facendo? Sì. Quindi lo senti. Il segreto sta nel mantenere questo allargamento, questo diaframma, che poi è questo muscolo che divide i polmoni dagli organi interni, quindi dal pancreas, gli organi, il fegato, gli organi bassi. Il segreto sta nel prendere l'aria e mantenere questo allargamento e mantenere il diaframma ben appoggiato. E quindi un esercizio potrebbe essere quello di inspiro, gonfio l'addome, allargo un po' la cassa toracica e faccio fuoriuscire lentamente l'aria, ad esempio producendo un suono, una S. Inspiro, allargo la gabbia toracica e faccio sgonfiare questo famoso palloncino un po' alla volta. Io posso usare anche un'altra consonante, la R, la P. R, ecco, la perché P. Io con la S non vado tanto d'accordo. Dottoressa Bertino, la respirazione aiuta anche tutto l'apparato fonatorio a funzionare meglio? Assolutamente, è primario controllare la respirazione. Anche noi, quando effettuiamo la cosiddetta riabilitazione logopedica nei pazienti con disturbi di voce, partiamo proprio dalla respirazione. Bisogna però poi dopo anche controllare quello che è lo stato dei muscoli della zona, diciamo, del collo, quindi vedere se ci sono eccessive tensioni muscolari, devono essere assolutamente curate, risolte, perché altrimenti se ci sono troppe tensioni muscolari la laringe è bloccata, quindi non può muoversi durante la fonazione, quindi questo comporta delle tensioni che poi si possono ripercuotere sulla produzione della voce, quindi sulle corde vocali. Quindi diciamo che tutti e due i sistemi devono essere presi in carico, devono essere valutati, devono essere quindi gestiti e curati se necessario. Marianna ci chiama dalla provincia di Bergamo, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno Marianna. Sì, io sono un'insegnante come tanti che ho sentito prima di me e come probabilmente vi starete rendendo conto, la mia voce, soprattutto quando sono al telefono, assume una tonalità decisamente da bambina. Sì. E io mi chiedevo se devo prestare attenzione a questa cosa, se devo fare degli esercizi specifici, e poi mi chiedevo insomma, che effetto può fare questo mio modo di parlare durante le lezioni. Insomma, con i miei studenti. Quanti anni hanno i suoi studenti? Sono adolescenti. Che sono allora, belli vivaci in genere. Patrizia, sì. Marianna, sicuramente l'emozione gioca un elemento sfavorevole nei tuoi confronti, perché sei emozionata, quindi tutta la tua attenzione e il respiro è molto alto. Quello che ti consiglio, Marianna, è quello di prendere consapevolezza, ne parlava proprio prima la dottoressa Pigozzi, contatto con il corpo, riprendere di nuovo, sentire il proprio corpo, portare il respiro nella parte bassa dell'addome, sentire l'appoggio dei piedi, lavorare sulla postura, lavorare proprio sul, viene definito, questo un termine un po' tecnico, l'ancoraggio dei muscoli della testa e del collo, come diceva appunto la dottoressa prima Bertino, i muscoli del diaframma. Quindi il suggerimento che ti do, Marianna, e per anche per avere più autorevolezza, è quello di risentire e riappropriarti un po' di più della tua fisicità, del tuo corpo. Quindi questo ecco, lavoro... è il corpo che esce con la voce, non la voce che esce dal corpo. Dottoressa Bertino, ci sono delle persone che notano, o magari all'inizio sono i familiari, che la loro voce nel tempo cambia. Da che cosa può essere provocato questo cambiamento? A volte persone che avevano anche una voce calda diventano tendono ad avere una voce con i toni alti. È vero che può essere implicata la tiroide? La tiroide diciamo non direttamente, non necessariamente, diciamo la tiroide può intervenire se ci sono appunto degli squilibri ormonali tali che possano poi determinare degli stati di, chiamiamoli, di edema, sì, quindi anche sulle corde vocali, quindi questo può interferire con il volume delle corde vocali, quindi con la vibrazione delle corde vocali, questo può ovviamente generare dei problemi di voce, però diciamo, non sono casi così frequenti. Oppure diciamo, la tiroide può creare dei problemi se però ci troviamo di fronte diciamo, a un tumore, quindi una malattia, certo, importante, che può andare a infiltrare i nervi ricorrenti, sì, che sono i nervi che muovono le corde vocali, quindi diciamo la tiroide ingrossata per un normale gozzo, per così dire, raramente crea problemi di voce, quindi bisogna rivolgersi a patologie molto particolari. Certo. Mentre è più semplice che alterazioni della voce dipendano? Dunque, se noi ci riferiamo diciamo, a quelle modifiche di voce che possono intervenire con l'età, dobbiamo ricordarci che esiste un invecchiamento fisiologico purtroppo anche per la voce, per, certo, le corde vocali, quindi c'è tutto un fenomeno. Quindi noi lavorando un po' come lavoriamo sulla pelle, sul cervello, dobbiamo lavorare anche sulla voce. Vi ricordo il nostro Daily Lab, avete sentito, continuate a visitarlo, scaricateci, vi prego, scaricateci. E abbiamo Vittoria da Roma, buongiorno Vittoria. Buongiorno a lei e alle sue ospiti. Dobbiamo fare velocissimo. Lei ha, sì, i nomi delle voci? Sì. Mi dica. Tento, Luca Ward, Paola Cortellesi, Claudio Bicio e Giorgia. Brava, bravissima, Vittoria, che orecchio, brava. Brava Vittoria, grazie. Voci smarrite, arriverà a casa di Vittoria che ci ha chiamato da Roma. Patrizia Mottola è stata con noi, la dottoressa Bertino, che ringrazio, una puntata tutta al femminile, vi aspetto domani. Buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.